30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Legge di conversione numero 35 del 4 aprile 2012, ad essere convertito in legge il cosiddetto decreto semplificazioni del governo Monti, un documento importante anche nelle dimensioni complessive, gli articoli sono 63 in tutto, che tocca temi molto diversi dall'azione politica all'imposta di bollo, alle assunzioni di lavoratori extra UE, dalla responsabilità solidale in materie di appalti pubblici alla ricerca di base, ma la sezione 4 con gli articoli 23 e 24 è dedicata invece alla semplificazione in materia di ambiente. Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, questa sera dedichiamo la nostra attenzione, la concentriamo sugli strumenti che ci permettono di valorizzare l'innovazione tecnologica orientata all'ambiente. In che modo dunque le certificazioni producono vantaggi, oltre alle complessità e ai costi che poi sono invece legati a questi percorsi, ne parliamo con due specialisti. Abbiamo con noi Paolo Pianieri dell'Unione Industriale di Torino, da 5 anni coordina il gruppo di lavoro in ambito UNI sulle normative ambientali. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. E con Daniele Pernigotti, un giornalista, un esperto di queste tematiche, che ci farà un po' da Virgilio in questo mondo che, lo ripeto, è estremamente complesso, è una parte di un grande tema, che è quello di una attenzione ai temi ambientali e che in realtà ha delle grandi implicazioni economiche. Allora, con Daniele Pernigotti subito una domanda: certificati, non certificati, qual è il quadro in Italia? L'Italia è uno dei paesi con maggior numero di certificazioni in campo ambientale. Ci sono circa 15.000 aziende certificate ISO 14001, che è la norma che definisce i criteri tecnici dei sistemi di gestione ambientale, e circa 1.200 invece di aziende registrate EMAS, che magari poi possiamo vedere più in dettaglio. È una norma avanzata rispetto al 14001, con attenzione particolare alla comunicazione esterna. Paolo Pianieri, perché certificarsi? Quali sono le possibilità e i vantaggi, visto che tra l'altro i dati sono proprio freschi, cioè in Italia c'è un costo di burocrazia enorme, un'industria stima il costo della burocrazia in Italia di 70 miliardi all'anno. La certificazione a sua volta è un progetto, è un processo che costa. Perché lo si fa? Certo, è un processo che costa, ma che ha dimostrato di portare dei vantaggi alle imprese che hanno seguito questa strada. Vantaggi soprattutto in termini di conoscenza degli aspetti ambientali collegati alla propria attività, di maggiore tranquillità nel perseguimento della conformità legislativa, nella capacità di migliorare il proprio sistema di gestione e quindi nell'efficienza di gestione degli aspetti ambientali. Un elemento interessante che mi piace ricordare è che i numeri complessivi, l'Italia è il quarto paese al mondo per certificazioni ISO 14001, nel mondo sono circa 250.000 le aziende, a fine 2012 che è l'ultimo rapporto ufficiale dell'ISO. In Italia siamo il quarto paese al mondo, dietro Cina, Giappone e Spagna. In Italia c'è stata una lieve flessione, ma sostanzialmente il dato che possiamo dare è che anche in questo periodo di crisi, in cui le aziende sono portate a fare economia e a tagliare i costi superflui, le certificazioni ambientali hanno tenuto, cioè questo è più di ogni altra cosa una testimonianza che il sistema volontario è un sistema che però chi lo ha provato lo apprezza e l'ha ritenuto valido e efficace. Insomma, un sistema che ha le sue complessità, i suoi costi, ma che l'Italia, come abbiamo sentito, quarto paese in questa classifica. Certo, la Cina immagino che avrà anche dei numeri diversi, ma Giappone e Spagna sono paesi per molti versi comparabili. Daniele Pernigotti, in che modo la politica e quindi la normazione sostiene un processo che chiaramente è un'avanguardia, è un'innovazione nel nostro paese? Ma deve fare un passo indietro di una ventina d'anni, perché tutto questo discorso nasce, almeno a livello europeo, nel 92 con il quinto programma politico ed azione per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, quando si diceva di dover fare un passo avanti rispetto alla logica del command and control, che regolava i rapporti tra l'ente pubblico e l'azienda, cioè la logica delle guardie ladre per intendersi, no? Quindi facciamo le leggi e poi vediamo di capire chi non le applica per perseguirlo. Allora, a quel tempo, nel 92, si è detto dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo cercare di invece premiare chi si comporta bene, cioè le aziende devono dimostrare la loro volontà di gestire in modo serio la problematica ambientale e chi lo farà dovrà avere un vantaggio dalla parte del pubblico, questa era la logica. In questi 20 anni molto è stato fatto, Pioniere ha ricordato che insomma siamo il quarto paese a livello mondiale, con 15.000 aziende certificate, un numero molto importante, però per contro invece dal punto di vista dei vantaggi dell'ente pubblico ancora i vantaggi sono pochi. Si parla di semplificazioni autorizzative, si parla di riduzione dei controlli, io in mente, cioè prima di entrare nel merito del decreto della legge attuale, un decreto del 2008 112 che l'articolo 30 diceva che i controlli dei certificatori dovevano sostituire i controlli amministrativi, sia per il nuovo delle autorizzazioni e anche invece per la parte dei controlli. Cioè in sostanza si persegue il processo della certificazione e nello stesso tempo si sostituisce con questo processo quello che invece è il controllo successivo, cioè io sono certificato, dunque non ho più bisogno di essere controllato, è questo l'obiettivo? I controlli ordinari, la logica era che i controlli ordinari vengono sostituiti da questi controlli fatti su natura privatistica dell'ente di certificazione e quindi rendendo efficace il sistema si parlava appunto di evitare ogni doppio attività di controllo. Il problema è che questa decreto legge doveva avere un regolamento attuativo entro 60 giorni e come magari spesso capita purtroppo questo regolamento non è più arrivato, sono state anche un paio di interrogazioni parlamentari, ma purtroppo niente è stato fatto sul fronte dell'applicazione di questo articolo 30. Insomma, da una parte le leggi, poi a volte si perdono. Pianieri, uno degli obiettivi anche di chi sostiene questi processi è arrivare alle cosiddette autorizzazioni uniche, cioè quelle sorte di patente di comportamento che portano reali vantaggi a chi si impegna in questi processi. Quanto siamo lontani? Beh, questo è veramente un argomento interessante perché tra l'altro come Unione Industriale di Torino abbiamo fatto un investimento molto forte su questi sistemi di gestione con un'attività dedicata a partire da metà degli anni 90 proprio in quest'ottica, cioè del superamento del comando controllo, anche perché la nostra percezione nel rapporto quotidiano con le imprese è che le domande più forti che nascono sono quelle di avere da un lato un quadro normativo chiaro, norme chiare, regole chiare, dall'altro una semplificazione e una razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, affiancato da un approccio collaborativo nei rapporti con la pubblica amministrazione. In questo senso abbiamo fatto un'esperienza che credo sia interessante condividere, dove proprio i sistemi di gestione sono stati un po' l'elemento su cui mettersi intorno con la pubblica amministrazione. Abbiamo fatto 2 accordi volontari con la provincia di Torino per promuovere questi sistemi, riconoscendo di fatto che ambedue le parti del tavolo ritenevano fosse un bene per le imprese e per l'ambiente diffondere questi sistemi. Uno dei temi che abbiamo dibattuto in questi anni è sempre stato quello delle semplificazioni amministrative e alcune cose sono state fatte, poi magari quando parliamo della legge di conversione le citerò, ma questo per dire che... Parliamone, che succede? Perché perfetto, dice quando... No, allora, 2 esempi, molte cose si sono fatte, ma credo che citerei 2 esempi per amor di brevità che mi sono sembrati più significativi. Il primo è diciamo di livello nazionale, una normativa innovativa che da qualche anno viene applicata è la cosiddetta normativa IPPC per la prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento, una norma che riguarda un sottoinsieme di imprese a maggiore impatto, diciamo, così classificate dall'Unione Europea, che prevede che venga rilasciata a queste imprese un'autorizzazione integrata ambientale, quindi che guardi a 360 gradi gli aspetti ambientali dell'azienda, un unico atto che ingloba tutto, che ha 3 elementi di novità sostanzialmente, appunto l'approccio integrato, il secondo elemento è che fa riferimento a delle migliori tecnologie disponibili a livello, definite a livello europeo settorialmente, il terzo elemento che coinvolge le parti interessate nel processo di autorizzazione. Bene, nella legge di recepimento, quello che è stato fatto a livello nazionale è che nel caso di aziende non certificate l'autorizzazione dura 5 anni, nel caso di aziende certificate su 14.000 6 anni, nel caso di aziende imprese registrate EMAS 8 anni. Insomma c'è un premio. Esattamente, viene premiato questo impegno volontario delle imprese. Ricordo poi che queste imprese che aderiscono a questi sistemi si sottopongono a un controllo esterno periodico da parte di un ente terzo, quindi fanno qualcosa in più che va oltre quello che è la lista della, diciamo così, la linea della legge. Allora, questo impegno viene premiato ed è stato molto apprezzato perché, ad esempio, in materia di PPC, avere tempi più lunghi può voler dire avere più tempo anche per fare investimenti di miglioramento. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera e bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Allora, abbiamo sentito che c'è un vero e proprio movimento che riguarda le certificazioni ambientali, un percorso ormai che ha una storia ventennale, ma con molti punti che restano di fatto degli incompiuti. Allora, questa sera con Paolo Pianieri dell'Unione Industriali di Torino, da 5 anni coordina il gruppo di lavoro in ambito UNI sulle normative ambientali. Torniamo da lui tra un momento, ma volevo chiedere a Daniele Pernigotti, che lo ricordo è giornalista esperto, da anni si occupa di queste tematiche, di darci qualche esempio, insomma, di campioni di questa cultura della certificazione avanzata. Dove dobbiamo guardare? Sì, certificazione e soprattutto semplificazione per le aziende, perché era questo il passaggio importante che dicevamo prima che deve essere fatto. E l'esempio più interessante è probabilmente quello della Baviera. La Baviera ha praticamente eliminato le attività di controlli ordinari, questo l'ha già fatto per le aziende che sono in possesso della certificazione ambientale, ed è una cosa che appunto stiamo cercando di portare anche in Regione Veneto per cercare di vedere se si può in qualche modo replicare questo esempio. Ecco, che significa esattamente? Cosa ha fatto la Baviera? Cosa la rende diversa da noi? Allora, nell'esempio dell'articolo 14 della legge di cui stiamo parlando, si parla di semplificazione per le aziende che sono in possesso della certificazione qualità, quindi chi ha un sistema di gestione della qualità, e non si tocca quindi l'elemento ambientale, che sarebbe quello invece più interessante. La Baviera invece ha detto no, chi è in possesso della certificazione ambientale, cioè 14.001, non occorre che subisca i controlli dell'ente pubblico per la parte ambientale, perché c'è già un terzo, quello che diciamo in precedenza, e quindi ci riserviamo ovviamente di fare dei controlli in caso in cui nascono dei problemi, ma accettiamo i controlli dei terzi come base di partenza. I terzi sono i certificatori, ovviamente. Ovviamente. Ecco, quindi questo rappresenta un vantaggio che però, appunto, perché non arriva in Italia questa possibilità? O perché non c'è ancora arrivata? Purtroppo c'è un po' di resistenza, perché adesso non sappiamo quali sono le logiche di fondo, ma c'è come se ci fosse la paura, c'è bisogno di mantenere la logica dei controlli nella logica, scusate la ripetizione, del coma d'incontro che dicevamo prima. Cioè non ci fidiamo di noi stessi? Può essere questo? Stiamo parlando del 92, quando l'Unione Europea ha fatto, la Comunità Europea allora aveva fatto questa scelta. Dobbiamo fare un passo avanti, anche perché il command and control non è efficace, cioè non è che con questo sistema così rigido poi alla fine chi sbaglia realmente paga, perché è difficile, gli enti di controllo non hanno le risorse interne, questo lo sappiamo. Se anche poi dovessero trovare delle situazioni che non funzionano, e comunque sia alla fine è difficile far pagare realmente a chi ha un comportamento poco corretto dalla parte ambientale, quindi è meglio rovesciare questa logica. L'hanno pensato 20 anni fa e noi abbiamo ancora un po' di difficoltà ad adeguarci a questo sistema. Pianieri, dal punto di vista invece del Piemonte, quindi abbiamo parlato della Baviera, parliamo del Piemonte, di un'altra regione europea all'avanguardia, a che punto siete e su cosa lavorate? Beh, parto sempre da un altro riferimento alla legge di conversione 35. È un'altra apertura di questa norma, che anche qui richiede dei decreti attuativi, ma un'apertura grossa, introduce e spinge verso un'autorizzazione unica ambientale per tutte le imprese, quindi per tutte quelle che non sono soggetti ad AIA, autorizzazione integrata ambientale. E questa è una grossa rivoluzione, vuol dire che in funzione di come verrà poi attuato questo articolo cambierà un po' tutto il mondo di riferimento e ci saranno grosse opportunità di semplificazione, grosse. Cosa vuol dire grosse opportunità di semplificazione? Appunto, perché credo sia sempre importante partire dalle cose che hanno funzionato in passato più che costruire cose partendo sempre dal tavolo vuoto. In provincia di Torino è stata attuata a partire dal 2010 una normativa che prevede praticamente che le imprese che chiedono autorizzazioni in tema ambientale, ad esempio la valutazione di impatto ambientale, piuttosto che un'autorizzazione allo scarico idrico, alle emissioni in atmosfera, debbano corrispondere alla provincia gli oneri istruttori, cioè il pagamento del costo istruttorio della pratica, cosa che non era mai avvenuta in passato. In passato le imprese chiedevano le autorizzazioni, c'era l'istruttorio e poi veniva rilasciata, quindi questo è un costo che si aggiunge ulteriormente ai costi di gestione aziendale. Però grazie anche a tutto il lavoro fatto in passato con la provincia, grazie al fatto di conoscersi e aver capito anche il ragionamento fatto dall'altra parte del tavolo reciprocamente, siamo riusciti a far introdurre un abbattimento di questi costi per le aziende certificate ISO 14001 del 30% e per le aziende registrate EMAS del 50%. Questo in virtù del fatto che ormai è provato e assodato che istruire e interagire sul piano ambientale con aziende che hanno questi sistemi è più semplice anche per la pubblica amministrazione, perché la consapevolezza è elevata. Sembra quasi, come dire, mi viene in mente quel percorso che le assicurazioni ormai fanno da anni sulla natura del conduttore, di fatto guido bene, non ho incidenti, quindi costo meno e di fatto costa meno la mia polizza. L'impresa che fa un processo di certificazione più o meno sofisticato, poi magari parliamo un momento della distinzione di queste due certificazioni, riceve dunque uno sconto, perché per la pubblica amministrazione rappresenta un onere inferiore controllarla e interagire con questo tipo di impresa. Tra l'altro esiste qualcosa di analogo anche a livello ambientale, nel senso che esiste da anni un accordo tra Confindustria e la Sezione Nazionale delle Imprese d'Assicurazione che in qualche modo riconosce alle imprese certificate un premio inferiore per quelle assicurazioni sull'inquinamento ambientale. Ecco, questo quindi è perfettamente calzante l'esempio. Perfetto. Per quanto riguarda i numeri complessivi, Pernigotti, abbiamo detto all'inizio che l'Italia è in una buona posizione, quarta posizione nel mondo, ma di fatto stiamo parlando di qualcosa che è ben al di sotto del 5% delle imprese. Come mai siamo ancora a numeri che appaiono così bassi, se lo sono? Dovete tenere presente che è un cambio di mentalità. Abbiamo visto quali sono i ritardi forse dalla parte del pubblico di accettare questa logica, e resistenti sono state anche a livello delle imprese. Insomma, quando si è partiti nel 93 con la parte EMAS e nel 96 con la parte ISO 14001, insomma, le aziende non è che hanno spalancato le porte verso queste logiche. Perché sono costi in prima battuta. Sono costi. In effetti io ricordo che proprio nei primi convegni che c'erano a quel tempo la prima domanda era: ma chi paga, chi ci finanzia? Adesso se si va a parlare con queste aziende, loro sono le prime a dire che hanno avuto dei ritorni in termini di gestione dei costi interni, costi in termini legislativi, ma piuttosto che costi anche tecnici per la gestione delle parti ambientali, per cui sicuramente il ritorno c'è stato, però richiede un cambio di mentalità. E questo fa parte della progressione che si diceva prima. E questa è la parte più complessa. Allora siamo verso la conclusione con Paolo Pianieri. Allora, questo cambiamento di mentalità dall'Osservatorio del Piemonte, lei lo osserva? Ma io devo dire che, essendo a contatto diretto con le imprese e soprattutto dalle imprese certificate, le cose che sono state apprezzate di più di questi sistemi è la capacità di gestire le varie problematiche a livello ambientale, ma anche di cogliere le opportunità. Si parla molto in questi giorni, in questi mesi, di green economy, sempre di più per l'evoluzione del quadro complessivo è necessario saper guardare un pochino oltre i propri piedi. Allora, questi strumenti possono essere anche un'ottima palestra, un ottimo strumento per cogliere opportunità e saper gestire in modo preventivo e proattivo eventuali vincoli futuri. Questo può essere, in un mercato sempre più difficile, un vantaggio competitivo. Un vantaggio di cui evidentemente abbiamo tutti bisogno. Grazie a Paolo Pianieri, grazie a Daniele Pernigotti, al nostro regista Fabio Cantadori. 30 minuti in cronaca torna come sempre sabato prossimo a partire dalle 19:30. Un ottimo fine settimana a tutti voi.